Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Un fine settimana calcistico grigio, senza lampi, eccezion fatti direi per quelli di Bari e Roma. Il Bari che ha confermato contro una squadra in gran salute come il Palermo di giocare il calcio forse più divertente ma di sicuro più sorprendente dell'intera Serie A. La Roma che invece aveva un ostacolo basso perché era il Siena l'ultima della classe, ma è riuscita a fare a meno contemporaneamente di Totti, di Vucinic e di Toni, e cioè dell'intero reparto d'attacco anche vagamente qualificato, e ha segnato i due gol più belli della giornata con altrettante prodezze assolute di Rise prima e del giovane Okaka in partenza per il Fulham, di Tacco poi. Proprio la Roma è la squadra del 2010. Se andiamo a guardare i numeri, la Roma, e li prendiamo anche un pochino più indietro, a partire dall'ultima sconfitta che risale al 28 ottobre a Udine, da allora ha ottenuto 9 vittorie e 3 pareggi, e durante questi 30 punti, questa raccolta di 30 punti, ha lasciato il Milan a 25, l'Inter e il Napoli al 24, Palermo e Cagliari più indietro ancora a 19, eccetera, eccetera, eccetera. Se poi arriviamo a guardare i punti che ha raccolto la Juventus in quel periodo, ovviamente si cambia capitolo e si cambia argomento. Ci sono molti altri numeri interessanti a saperli cogliere. Per esempio, questa 22esima giornata è stata quella del ritorno al pareggio, segnala Franco Piantenida, esperto appunto di curiosità numeriche, perché il Milan non pareggiava da 10 giornate, la Fiorentina da 12, la Juventus da 13 e il Livorno addirittura da 14. Del Piero ha segnato, sia pure su rigore, che ho visto stamane definire in vari modi, ma non a parer mio con l'unico aggettivo che lo descrive in maniera più propria, e cioè imbarazzante. Alessandro Del Piero ha un conto aperto con le romane, evidentemente, perché la Lazio è la squadra a cui Del Piero ha segnato il maggior numero di gol tra tutte quelle affrontate in carriera, e sono 13. Seguono a ruota 12 gol di Del Piero sia alla Roma che al Parma. Il Cagliari ha segnato 30 gol nelle ultime 15 partite casalinghe, quindi viaggia, quando gioca al Sant'Elia, alla ragguardevole media di 2 gol a partita, che è una media assolutamente da grande squadra. Non a caso stamane a Coverciano Allegri ha vinto la panchina d'oro come miglior tecnico della Serie A per la stagione 2008-2009. La panchina d'oro è un premio che è stato istituito un po' meno di 20 anni fa, ed è un premio istituito dal settore tecnico federale della Federcalcio, che viene assegnato con le votazioni degli allenatori stessi, e cioè sono loro a votare il migliore tra loro. Dunque ha vinto Allegri per la Serie A, parliamo ovviamente della passata stagione, ma nel caso di Allegri credo che il premio potrebbe anche essere confermato, sia pure dopo lungo ballottaggio con Ventura, io penso, per quest'anno. In ogni caso, la panchina d'oro per la Serie B, e quindi ho detto male, la panchina d'argento per la B dello scorso anno è andata a Antonio Conte alla guida del Bari. È stato premiato anche Pierpaolo Bisoli, tecnico del Cesena, che nella passata stagione aveva riportato il Cesena in Serie B, e per la categoria ancora inferiore, per la seconda divisione, a Semplici, che ha vinto il campionato con il Figline. Da notare che concorrono anche gli allenatori stranieri alla panchina d'oro, e quindi gli allenatori italiani hanno ritenuto che Allegri abbia fatto in assoluto un lavoro ancora migliore di quello di Mourinho, tant'è vero che il premio l'ha vinto per l'appunto Allegri. Nel frattempo la Lega ha comunicato ufficialmente la data del recupero di Parma-Inter, che peraltro era nell'aria sin da ieri. Si recupererà il prossimo mercoledì 10 febbraio alle 20:45, e contemporaneamente questo significa lo slittamento automatico di Fiorentina-Inter, la semifinale di ritorno di Coppa Italia, andata in programma sta settimana a San Siro. Il ritorno è automaticamente slitta a mercoledì 14 aprile. Cominciamo con gli argomenti, dopo aver segnalato quelli in positivo che riguardano, ripeto, in particolare la Roma e il Bari, senza dimenticare la Sampdoria, che è arrivata alla seconda vittoria consecutiva nonostante. Zaccheroni, Leonardo e Ranieri mi sembrano un pochino i personaggi di giornata per varie ragioni. e darei la precedenza proprio a Zaccheroni, perché insomma era anche da un po' che non sentivamo il suo accento romagnolo, il suo commento al pareggio con la Lazio. Al di là che abbiamo cercato sicuramente, come era doveroso, tentare di fare la partita più di loro, cioè perché ci sono stati 5 tentativi da parte nostra e uno da parte loro, sono state diverse cose. Quando sono entrato in spogliatoio li ho visti molto molto rammaricati. Questo è sicuramente un segnale positivo. C'è tanta rabbia da sbollire, perché questa è una squadra, almeno per quello che ha fatto vedere questa sera, che cerca il risultato, ma lo fa con troppa frenesia, andando a occupare delle zone che penso che sia il tutto legato a questa voglia di strafare. La prima mezz'ora abbiamo fatto pochissima fascia, è difficile andare dentro sempre palla al piede con questi scambi stretti centrali. La colonna sonora era quella che ha accompagnato l'intera partita della Juventus ieri sera, e come accade ormai da qualche giornata e da qualche partita, anche quelle di Coppa Italia, certamente non è l'aiuto di cui la squadra in questo momento avrebbe bisogno. Notizia appena arrivata, si temeva l'ennesimo infortunio muscolare per un giocatore della Juventus, cioè per Felipe Melo, e invece il brasiliano sarà disponibile dopo gli esami di stamane, sarà disponibile per l'anticipo di sabato a Livorno, partita in cui già Zaccheroni dovrà fare a meno a metà campo di Marchisio, Paulsen e Salihamidžić infortunati, e di Sissoko, che sarà squalificato. Quindi, se non altro, Felipe Melo servirà in questa occasione a far numero, che è già pur sempre qualcosa. Il futuro di Zaccheroni, è stato ampiamente annunciato come un futuro a termine, a scadenza, e con la data, insomma, no? Con la data marchiata sulla confezione. Lui è scettico su questa certezza e sostiene di averne viste tante nella vita. Sentiamo. Se arriverà qualcuno più bravo di me, meglio ancora. Io cercherò di fare il mio, credo in questo organico, credo che abbia delle risorse non ancora evidenziate, credo che da adesso in avanti vedrete una squadra in crescita. E questa è la speranza di Zaccheroni. Leonardo è un altro allenatore che pensava di essere uscito, anzi per lungo tempo è uscito dalla cosiddetta graticola, al punto che fino ad una settimana fa, no, una settimana più un giorno, se ricordate, la suggestione era quella, semmai, del Milan che stava davvero rimontando l'Inter, o comunque che ne aveva possibilità concrete. Beh, insomma, sono passati 8 giorni, il film è completamente diverso, quella trama è tramontata e oggi fa persino un pochino sorridere. Sentiamo che ne dice Leonardo. Una settimana non semplice, sono 7 giorni di risultati che sappiamo. Credo che il derby è stata una partita particolare, come lo è sempre il derby, no? Dopo la Coppa Italia, una situazione diversa, che abbiamo perso sicuramente l'opportunità di giocare una semifinale. Oggi credo che forse ci è mancato solo quel guizzo, sicuramente venivamo di un risultato, avevamo bisogno di una buona prestazione. Credo che non possiamo dire che abbiamo fatto una grande partita, ma neanche male. Credo che ci è mancato capitalizzare le occasioni che abbiamo creato contro una squadra che si è proposta sicuramente a difendere. Anche perché insomma, che il, non il Livorno, ma i Livorno devono presentarsi sul campo del Milan o dell'Inter o della Juve o della Roma ad attaccare, insomma, non è poi così frequente. Non pensa, domanda Dario da Alessandria, che Parma-Inter si sarebbe dovuta giocare magari con un'ora o due di ritardo? Non è ridicolo che decida sempre il mondo della TV? È sbagliato. E in ogni caso non è il mondo della TV che ha deciso il questore, e non è la prima volta che accade. È un discorso evidentemente un po' complesso, forse anche un pochino più lungo e meno sbrigativo di così, e magari più tardi, anche tramite i vostri interventi, proviamo a tentarlo. Sono saltati due allenatori in Spagna in queste ore, uno prima, e cioè già nella serata di ieri, l'allenatore del Villarreal dopo una sconfitta in casa contro l'Osasuna, e adesso leggo dall'ultima agenzia arrivata che anche il Valladolid ha licenziato il suo tecnico. Questo significa che il totale in Spagna sale a 7 allenatori licenziati, raggiunge come totale quello della Bundesliga, che sono credo anche loro a 7 esoneri. La Francia è ferma a 2, ma voglio dire, noi stravinciamo essendo ormai issati a quota 12 e non credo che sia già finita così. Sentiamo ancora una voce prima delle tante di voi ascoltatori già prenotati. Sto leggendo che ci sono amici che vogliono intervenire da Genova, da Alessandria e dalla provincia di Trapani. Volevo ancora sentire, per completare un po' i tre temi principali di giornata, non tanto Ranieri che parla della partita, della vittoria su Siena, quanto su che si esprime nella giornata in cui gli mancavano, ripeto, Totti, Toni e Vucinic, che si esprime su questo, un cannoniere l'ha già perso, che è Okaka, che ormai è in partenza, no? Quello che ha segnato questo gol decisivo splendido di tacco, ma sull'altro che è diventato a Roma, Rise, ancora più un terzino d'attacco di quanto non lo fosse a Liverpool. Sentiamo. Conoscevo molto bene questo ragazzo perché con il Chelsea abbiamo affrontato più volte il Liverpool e lui era abituato a giocare esterno alto. Devo dire che qui a Roma ha fatto dei progressi da gigante, è diventato un esterno basso molto molto efficace perché fa bene le diagonali e poi per essere un difensore ha veramente un'ottima tecnica e un giocatore in più proprio da sfruttare anche nelle fasi offensive. In effetti questo è, direi, tutto vero. Rise ha stentato un po' ad inserirsi nella stagione scorsa, al suo primo campionato italiano, ma quest'anno sta facendo vedere di che pasta è fatto davvero. Maurizio ha chiamato da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Noi ci scambiamo spesso delle mail a cui gentilmente mi risponde. E volevo riallacciarmi alla trasmissione di ieri pomeriggio subito dopo le partite, perché c'è stato un tifoso come me della Fiorentina che ha telefonato dicendo delle sciocchezze immense sul radiocronista di turno, non mi ricordo chi fosse, non posso ascoltare la radio perché sono in ospedale in questo momento, e dicendo delle sciocchezze a proposito della droga e al caso Mutu. Mutu, io tifoso della Fiorentina a 60 anni, posso dire che è stato davvero un cretino, perché solo un cretino, avendo a disposizione una società seria come la Fiorentina, con un medico sociale sempre dietro, poteva assumere un farmaco senza chiedere permesso al suo medico. Io che purtroppo ho spesso a che fare con ospedali per motivi di salute, non prendo mai niente senza chiedere nulla al mio medico, non sono uno sportivo. Certo, e non è un professionista, anzi. E non sono professionista. Esattamente. Beh, Maurizio, direi, indipendentemente dal riferimento che lei ha fatto e su cui non sono in grado di entrare perché non documentato, ma non c'è dubbio che le cose stiano esattamente come sta dicendo lei, come ci ha detto lei, e con i migliori auguri di continuare ad ascoltarci o di tornare a corrispondere magari da un posto un pochino più divertente, più confortevole, che non sia un ospedale. Auguri davvero. Enzo, provincia di Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io volevo parlare un po' della Roma di Ranieri. Uh-huh. E vedere cosa ne pensa lei delle mie considerazioni. In pratica io credo che il modulo di Ranieri sia meno dispendioso di energie rispetto a quello di Spalletti. E mi è capitato di vedere la Roma in diverse occasioni e mi sembra che non parta a mille come faceva quando allenava Spalletti, in modo che rimangono, diciamo, delle energie da sfruttare poi nei minuti finali, dove quasi spesso negli ultimi momenti è riuscita anche ad agguantare i tre punti. E un'altra considerazione è quella che in questo momento, dove Toni è un po', cioè è infortunato, non le sembra sbagliato il fatto di lasciare partire Okaka? Tutto qua, l'ascolto per radio. Grazie. Non ho idea, Enzo, evidentemente avranno fatto i loro conti, sanno che Toni gli mancherà grosso modo per un mese ancora, sanno anche che Totti di grande salute non gode più, e questo da tempo. Ieri c'è stato anche il guaio di Vucinic, ripeto, avrà fatto i loro conti. Certo, sì, dopo la prudenza di ieri fa un po' specie che un ragazzo del genere, ventenne tra l'altro, se ne vada, ma mi pare che la Roma in questi ultimi tempi abbia discretamente dimostrato di saperci fare anche nella pianificazione dell'organico, quindi nei panni suoi mi fiderei di quello che hanno valutato, ma nessuno dice, scrive un ascoltatore, che la Juve gioca senza attaccanti perché Del Piero e Amauri sono da un po' di tempo ormai impresentabili, ma io credo che l'abbiano detto in tanti invece e che lo si stia continuando a dire, non mi sembra sia un tipo di osservazione così inedita la sua. Leonardo ha chiamato dalla provincia di Trapani, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io la chiamavo in relazione al posticipo di ieri sera, quindi Juventus-Lazio, perché io ho visto la partita e mi è sembrato di vedere per esempio uno come Melo che ieri ha fatto una buona gara, non dico un'ottima gara ma una buona gara. Ecco, non è che cambiando allenatore con il vecchio qualcuno potesse avere delle ruggini particolari o delle incomprensioni. Comunque la Juventus non ha fatto un'ottima partita, ma mi è parso che in alcuni c'era più voglia e più impegno. Lei cosa ne pensa? Penso che sia una normale reazione, non so se definirla nervosa o chiamarla come, che c'è grosso modo ad ogni cambio di panchina. Melo ha fatto cose discrete ieri sera, direi che non fa notizia questo, fa notizia semmai quanto giocasse male prima e credo anche che peggio di prima non potesse giocare, insomma, quindi prima o poi uno che, ripeto, fino a prova contraria è un titolare nel centrocampo del Brasile, io credo che sia stato o mal impiegato o si sia mal inserito, sarà colpa sua, sarà stata colpa di Ferrara, sarà stata colpa dei compagni, ma insomma, se uno, dato che in nazionale si gioca meno che nel club, se uno riesce a trovare la posizione, e Melo l'ha sempre trovata bene in nazionale, nelle partite a meno che ho visto io del Brasile, se uno riesce a trovare la posizione bene in una squadra in cui ci si ritrova una volta ogni tanto, beh, a maggior ragione dovrebbe trovarla in una squadra con cui si allena tutte le sante settimane. Continuo a pensare che non sia tutta colpa sua, ma non credo che ci sia da tirare in ballo un impegno diverso, perché perlomeno io non ho avuto quella sensazione, ecco. Massimo ha chiamato da Parma, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Volevo puntualizzare l'argomento del Parma-Inter non giocato ieri. Io sono di Parma, ovviamente mi è dispiaciuto come tanti altri, però ritengo che la decisione fosse giusta, anche perché ieri mattina Parma è stata investita da una nevicata molto violenta, dalle 8 fino alle 10.30, 11 del mattino. In più la temperatura si è abbassata notevolmente, tant'è che alle 4 del pomeriggio c'era meno 2. Adesso io capisco che in tanti campi si possa giocare anche a temperature molto più rigide. Abbiamo visto anche sabato pomeriggio il Bayern che ha giocato in una nevicata notevole, però un conto è che inizi a nevicare durante la partita, l'altro è che la partita deve ancora iniziare e c'è il campo impraticabile, gli spalti erano completamente innevati. Massimo, mi scusi, il campo non era affatto impraticabile, il campo era in condizioni perfette, c'era il sole e c'erano 8 gradi. Con i teli era praticabile, però comunque per un fatto di ordine pubblico ritengo che fosse stata una decisione giusta. Io questo è quello che penso. No, no, certo, ma può anche darsi che sia stata una decisione giusta. Io non credo che un questore decida per capriccio che non si gioca, evidentemente. Tutto questo fa parte anche, io credo, della, adesso non è per ricondurla sempre all'inciviltà del pubblico, o perlomeno potenziale inciviltà del pubblico, ma è ovvio che se all'estero basta spalare un po', a condizione che il campo sia perfetto, se i cosiddetti spalti all'estero sono in condizioni appena frequentabili si gioca, qua non si gioca perché c'è paura, perché se semplicemente si scivola perché c'è un po' di ghiaccio, altrove magari uno ti dà la mano e ti tiene su, qua se scoppiano tumulti, e ogni tanto scoppiano, no, mi risulta, e tra Parma e Inter anche recentemente qualcosina era successo, probabilmente è questo che ha suggerito al questore quello che da tanti, per non dire da tutti, è stato considerato un eccesso di zelo, insomma un eccesso di cautela. Poi siamo sempre lì, se invece si fosse giocato e fossero poi successi degli incidenti e qualche spettatore si fosse fatto male, oggi staremmo dicendo l'esatto contrario, quindi io non sto affatto dicendo che lei abbia torto, diciamo che complessivamente sono state più le reazioni perplesse di non, che non quelle di di approvazione. Ma che fine ha fatto Iaquinta, domanda Andrea, che è una domanda perfetta, magnifica. Un tempo l'avrei saputo rispondere, ripeto, perché non c'era la legge sulla privacy applicata al calcio. Oggi Iaquinta è sinceramente un mistero, perché sono almeno 3 mesi che è scomparso dai radar della Juventus e non si sa nulla di preciso sulle sue condizioni. Lippi: non ho detto che lascerò dopo il Sudafrica, adesso penso solo al mondiale, dipenderà anche dai risultati, tra me avete già tutto chiaro, anche il mio futuro, il presidente è una persona che stimo e con lui parlo sempre con la massima chiarezza, è stato costruito un castello sui rapporti tra me e la Juve, magari un giorno sarà la stessa Juve a dire come stanno le cose, io in testa solo la nazionale. Devo trovare 4-5 giocatori che mi mancano e per questo ne sto seguendo una ventina. A maggio sceglierò chi è nelle condizioni migliori. Luca da Bari, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno. E complimenti per la trasmissione. Volevo farle, ecco, questa osservazione, sempre con riferimento a quanto detto prima dal precedente ascoltatore, circa il rinvio della partita dell'Inter con il Parma. Ma io dico, è possibile che oggi ancora debbano rinviare le partite per neve? Cioè, è che se anche gli spalti fossero coperti da neve, per motivi di ordine pubblico non si poteva giocare a porte chiuse. Così facendo non si agevola l'Inter facendole comunque fare una sosta che influisce in maniera benevola sullo stato fisico dei calciatori. Ecco, volevo la sua opinione in merito. La mia opinione è no, perché io sono convinto che col calendario ipercompresso che abbiamo, tu hai preparato una partita, sei pronto a giocarla ed è molto meglio che la giochi che non rinviartela e ritrovartela sul groppone. Non è che poi la giocano a Subbuteo dopo, o a Scopone, dopo la giocano sul serio. Il prossimo mercoledì sarà la stessa situazione di adesso. Il prossimo mercoledì, tra l'altro, essendo il 10 febbraio e giocandosi alle 20:45, non è detto che le condizioni poi ambientali siano migliori di quelle che per cui il signor questore ieri ha ravvisato la necessità di rinviare, ma questo è un altro paio di maniche. Io credo che e comunque ho letto ufficialmente che questa è stata una decisione presa dal questore, no, non credo che il questore di Parma sia orientabile a seconda dei desiderata di società, che poi ripeto in un caso del genere non credo proprio che ci siano state pressioni, perché non sarebbero state a loro favore, almeno a parer mio, e seguendo un minimo di ragionevolezza. Torniamo in onda con altri ascoltatori con una notizia di mercato. È saltato lo scambio Inter-Milan tra Mancini e Ankulovski, ma è andato in porto ugualmente il prestito di Mancini dall'Inter al Milan fino a fine stagione, che è adesso poi si tratta di interpretarlo se è un bel gesto da parte dell'Inter o se è un modo invece per infierire sul povero Milan alla luce del Mancini delle ultime, direi, 3 stagioni, forse anche 4, le 2 nell'Inter e certamente l'ultima nella Roma. E quindi è aperto il dibattito. Paolo dalla provincia di Pistoia, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno, sono Paolo di Pistoia. Volevo dirle questo, comincio in una maniera e finisco in un'altra. Io sono un tifoso milanista e volevo ringraziare la dirigenza del Milan per tutte le soddisfazioni che ci ha dato in questi ultimi 20 anni, ma questo veramente di cuore, senza polemica. L'unica cosa che volevo dire è che dovrebbero essere la dirigenza del Milan altrettanto contenti quanto sono io contento di questi 20 anni di trovarsi ora al secondo posto con tutte le spese che non sono state fatte, cioè dire vendere giocatori di primo livello e trovarsi nonostante tutto nel posto forse meritato, forse no, non lo so, mi sembra già un punto di soddisfazione per loro. Tutto qui. Credo che 20 anni fa si vinceva, eravamo primi in tutto il mondo e si continuava a comprare gente come Papin per tenerla in panchina. Ora qui si vende per toglierla alla concorrenza, che è un po' quello che stanno facendo altre società oggi, perché poi insomma anche il calcio è una ruota che gira, oggi gira da un punto di vista di strapotenza economica in una certa direzione, domani tornerà a girare in un'altra, come in un'altra ancora girava ieri. Scrive Henry Durigon, spero di pronunciare giusto questo cognome, scrive e dice a pagina 46 del Corriere della Sera di ieri un articolo di Domenico Calcagno intitolato La folle squalifica del Togo informa che il Togo non giocherà le due prossime edizioni di Coppa d'Africa e dovrà anche pagare $50,000 di multa per essersi ritirato dalla competizione dopo l'agguato terroristico subito che causò la morte di due membri del team. Mi chiedo, domanda Henry, con quale logica la Confederazione Africana abbia stabilito questa pena? Henry, è la domanda che tutti si pongono nel mondo, tutte le persone di buon senso, non appena è stato notificato questo provvedimento, che è assurdo da una parte, dall'altro è brutale, e sono certo in qualche maniera rientrerà, nel senso che o rientrerà con le buone, nel senso che saranno gli stessi dirigenti africani, a cominciare dal presidente Issae Yatou, a capire che questa è una mossa assurda, non solo sbagliata, oppure sarà la FIFA, mi auguro, a cercare di fargliela capire un po' meno con le buone. Insomma, in qualche maniera ci si dovrà pure arrivare a stabilire il diritto di una nazionale che ha avuto dei morti, e sottolineo dei morti, in un agguato terroristico andando a giocare un torneo, il suo buon diritto a ritirarsi perché, come dire, gli è passata la voglia di giocare a pallone, no? Se credo che se non torniamo almeno a ripristinare questi parametri di base, non, davvero non andiamo più da nessuna parte nel mondo, non soltanto nel calcio. Antonio, Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno. Io chiamo da Milano, sono un tassista, la ringrazio perché faccio un lavoro molto pesante e devo dire che nella sua ora è un relax totale. È più leggero, beh, questo è un bel complimento, grazie. La ringrazio. Allora, niente, io non voglio parlare di calcio, ma più che altro di un problema negli stadi, soprattutto noto stadi del sud, i laser. Io noto che purtroppo a Napoli, a Bari, recentemente, vedesi un rigore di Miccoli del Palermo. Io sono un tifoso milanista, premetto, però ho notato che purtroppo Miccoli è stato disturbato da questo laser a Napoli, sì. È stato disturbato lo stesso Diego nel rigore, sì, a Bari. L'altra sera c'era Melia che, poverino, impazziva perché continuava a fare il segno ok, il segno ironico chiaramente ai tifosi napoletani. Io penso che bisognerebbe trovare una soluzione. Io ne avrei due, poi magari le chiedo a lei un suo parere, magari se lei ha delle soluzioni, delle proposte. Proviamo a sentire. Io avrei due proposte. Una, nel momento in cui l'arbitro se ne accorge, fermare subito la partita, ammonire la squadra, la società, e nello stesso tempo alla seconda ammonizione che viene data in quella partita, squalifica del campo la domenica successiva. Questa è una. La seconda sarebbe quella che nel momento in cui si accorgono l'arbitro o altro, si ritirano, e tutte le volte che c'è un laser si ritirano, si fa avanti e indietro. Forse questa è un po' più provocatoria. Beh, un po' più complicata. È anche un po' più complicata, insomma. È un po' più complicata, però secondo me la prima che le ho proposto è una cosa molto valida, perché a furia, penso, di squalifica del campo e che gli stessi napoletani o baresi attaccati alla loro squadra non possono andare, a quel punto lì io penso che non ci sarebbe più motivo di usare questo laser. L'ascolto per radio, la ringrazio. Sì, cioè, qualcosa bisogna fare perché sta diventando una piaga. Le dirò, stranamente questa non è indigena, perché le prime esibizioni di laser, di questi raggi verdi, okay, sono avvenute all'estero, se non mi chieda quando e dove, però già tempo fa. E ogni tanto si segnalano, o si sono segnalate in questi anni, notizie di incursioni di questo genere. Poi, come sempre, se c'è un'idiozia vera, pura, in giro, è difficile che non prolifichi, no? È difficile che non si estenda, che non venga adottata, per esempio, dal tifo di casa nostra, dal tifo, si fa per dire, di casa nostra. E in effetti eccola qua, e adesso questo comincia a essere un problema abbastanza serio da affrontare. In qualche maniera si proverà, questa può essere una soluzione un po' drastica, quella di arrivare poi alla squalifica del campo, ma se dovesse continuare è indubbio che questo è un non dico un attentato alla regolarità della partita, però è un gesto che compromette comunque la regolarità della partita, o lo può compromettere seriamente, quindi tanto vale agire in maniera seria. Un tifoso fiorentino di nome Gabriele Menchelli scrive: è andata bene, dopo Muto ci mancava pure Cassano, ma il mio pensiero in questo momento va al povero Del Neri, autore fino ad ora ad un buon campionato che se lo ritrova tra i piedi e soprattutto rimesso dalla dirigenza sul piedestallo, naturalmente dopo le pressioni dei tifosi. Credo proprio che sarà Del Neri a pagare il conto, conclude Gabriele Menchelli. Beh, insomma, vale a poco, no? Una scommessa di questo genere, nel senso che ha ragione lei, caro Gabriele, non c'è nessun dubbio che sarà Del Neri a pagare il conto. Io ho addirittura il sospetto che se non avesse fatto due vittorie consecutive la Sampdoria rischia di pagarlo già adesso, o comunque di essere lì per mettere mano al portafoglio, e invece perlomeno al momento non è ancora accaduto. Abbiamo altre voci da sentire, però darei spazio a Omar, che ha chiamato da Milano. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a lei. Sì. Signor Garanzini, sì. Io le dico con sincerità, sarà la prima e sarà l'ultima volta che intervengo nella sua trasmissione, perché di calcio ho parlato, non è che comunque è un grande piacere per me partecipare sulla sua... La sento tutti i giorni, ma non intervengo perché io il calcio, per me, non so, è un piacere ascoltare calcio parlare nel modo in cui tratta magari argomenti, che la pacchettezza. Sì, io volevo farle una domanda, non so se ha avuto un modo, dico, come che io sono algerino, non so se ha avuto un modo di guardare magari la partita Algeria-Egitto in semifinale, non so, volevo così un'opinione, anche se sono convinto che la squadra algerina era nervosa e hanno fatto tanti errori che sia anche imperdonabili, ma cosa pensa, non so se ha avuto un modo di vedere l'arbitraggio e se il modo in cui è stato tirato il rigore dal giocatore egiziano, non so se ha avuto modo di guardare la partita. Omar, mi deve perdonare, ammesso che questa sia una colpa, ma sinceramente no. E le dirò che mi è anche spiaciuto, non tanto non aver visto Algeria e Egitto, ma non aver seguito la Coppa d'Africa, e non l'ho seguita proprio per due ragioni. La prima, non dico che sia stata una solidarietà col Togo, perché non così, cioè non in una forma così ufficiale, però sinceramente... quel po' di poesia e di curiosità che avevo per la Coppa d'Africa mi è sinceramente passata dopo aver letto le cronache di quell'agguato, dell'imboscata e delle conseguenze che ne sono venute. La seconda è che tutto quello che ne è seguito mi ha fatto pensare che ancora una volta, che non so che ennesima volta sia, la Coppa d'Africa ha perso un'occasione, insomma, ha perso una possibilità. Questo non vuol dire che non valga, non vuol dire che questo terzo titolo consecutivo dell'Egitto non sia meritato, non lo so, però ecco, diciamo che perlomeno mi ha fatto passare, ecco, messa in parole povere, mi ha proprio fatto passare la voglia di seguirlo. Può darsi che Mancini si rivitalizzi con un brasiliano come Leonardo, ma ho l'impressione che l'Inter abbia fatto un bel tiro Mancini ai cugini, scrive Davide da Forlì. Non lo so, l'espressione in cabina di regia che pullula di milanisti non sono esattamente entusiaste per questo arrivo di Mancini. Mancini era un giocatore che qualche anno fa era veramente un signor giocatore ed era una pedina importante, a tratti fondamentale, per la Roma di Capello prima e per la Roma di Spalletti poi. Mi sembra che il grafico del suo rendimento sia proprio da caduta libera in questi anni, e mi sembra che nemmeno all'Inter, insomma, dove pure in questo momento non dovrebbe essere così difficile inserirsi, mi pare che all'Inter questa caduta libera sia proseguita. Se Leonardo riesce a rigenerarlo, indubbiamente potrebbe essere una risorsa in più per il Milan, ma soprattutto sarebbe un capolavoro di Leonardo, ecco, a parer mio. Beh, ha suscitato interesse l'intervento dell'ascoltatore di prima sul laser. Allora, Paolo scrive da Prato: se non sbaglio, i primi a usare il laser in uno stadio furono i tifosi del Panathinaikos in Champions, ritratti tra l'altro dalle telecamere. Un altro ascoltatore scrive: sono d'accordo con il tifoso milanista, ma non mettiamoci solo Napoli e Bari, perché questo è un malcostume italiano, e sono d'accordo, è un malcostume italiano di importazione, come lo stesso ascoltatore precedente ricorda. Un altro ancora, Giacomo, si domanda come si possa entrare in uno stadio come si possa non entrare in uno stadio per un accendino e invece come si possa entrare con dei laser. Questi laser sono oggetti molto piccoli però, caro Giacomo, e quindi ho l'impressione che non sia facilissimo, deve essere trovarli, deve essere una di quelle cose in cui scatta, non dico scatta l'intelligenza in chi arriva col laser e vuole giocare col laser per accecare gli avversari, perché fare appello all'intelligenza in quei casi penso che sia davvero tempo sprecato per mancanza, no? Abbiamo capito di che cosa. Credo sia uno di quei casi in cui devono essere gli spettatori circostanti a intervenire e quando vedono uno che tira fuori, che ne so, sta pila, che cosa sarà, impugna questa roba e la dirige, secondo me cominciare magari verbalmente con una spiegazione sull'utilizzo possibile di questo oggetto e poi eventualmente disposti ad un'applicazione pratica potrebbe essere, come dire, un inizio di deterrente. Facciamoci un attimo di pazienza per un ascoltatore già in linea da Varese, perché ascoltiamo il ripasso e sentiamo che cosa ci racconta di un primo febbraio Nicola Filippone. Sembra ieri. Primo febbraio 1953, diciannovesima giornata di campionato. La Lazio si fa sorprendere in casa dal Novara, vittorioso per 3-1. A trascinare i piemontesi all'impresa è l'ex Silvio Piola, autore di una doppietta. Il gol della Lazio porta invece la firma del portiere Lucidio Sentimenti, detto Sentimenti IV, che trasforma un calcio di rigore. È la sua terza e ultima rete, tutte sul rigore, con la maglia della Lazio, ma in precedenza era andato a segno anche con la Juventus. Sentimenti IV è stato il primo portiere marcatore del calcio italiano. Dopo di lui verranno Rigamonti del Como negli anni 70 e più recentemente Rampulla, Taibi e Amelia. Beh, questo è un bel amacord davvero, perché ci sono dentro due o tre chicche mica da ridere. Intanto questa del portiere di Sentimenti IV, che oggi ogni tanto scopriamo altrove, no? In qualche altro paese, soprattutto in Sud America, portiere rigoristi, portiere addirittura che calciano le punizioni. Beh, Cocchi Sentimenti era uno che le punizioni no, ma i calci rigori li tirava d'abitudine e li tirava molto bene. E poi la suggestione di Piola, niente meno che Silvio Piola, ormai molto, molto in là con gli anni, che dopo tanti gol segnati con la maglia, ricordo che Silvio Piola è tuttora il detentore, il recordman dei gol segnati in Serie A con 290 gol e non credo verrà mai più raggiunto da chi che sia. Credo che sia un record non a vita, purtroppo, perché Piola è scomparso da parecchi anni, ma insomma che sia un record di quelli destinati a durare per sempre. Tantissimi gli erano segnati con la maglia della Lazio quel giorno sul campo della Lazio. Ne segnò due con la maglia del Novara, che era quella con cui poi più o meno si avviava alla conclusione della sua interminabile carriera. Un bel amarcord davvero. Ancora un attimo di pazienza però a Giuseppe, perché mi piacerebbe sentire quella frase un po' risentire, quella frase un po' nervosa, un po' stizzita che Del Neri ha detto ieri, sia pure dopo la vittoria sull'Atalanta, a proposito del cambio di indirizzo, insomma, di questo rientro all'ovile immediato e per lui credo nefasto, credo di aver capito, di Cassano. Un vantaggio averlo a disposizione, fare un rush finale se possiamo in futuro farlo, magari in maniera diversa. In questo momento qui i giocatori che giocano stabilmente hanno caratteristiche diverse e in questo momento sono più utili loro, però penso un domani di poter anche adoperare Antonio per quello che sarà magari in futuro un rush finale. Non so se avete sentito il tono del povero Del Neri, che secondo me sabato sera aveva, non dico stappato, ma insomma, diciamo che intravedeva un futuro, come dire, un po' più sereno, no? Un po' più tranquillo e una squadra più povera tecnicamente, questo è certo, ma anche un po' più razionale. Si sveglia la mattina dopo essersi addormentato con questo sole, si sveglia la mattina tu e quell'altro. E quell'altro ha cambiato idea tra il tripudio del popolo blu cerchiato. Giuseppe da Varese, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzia, a tutti gli ascoltatori. Senti, io sono d'accordissimo con lei, allo stadio non ci vado più dall'ultima partita di Platini, Juventus Brescia. Sono 23 anni a maggio. Uh-huh. E lei ha centrato il problema. Uh-huh. E questi che usano il laser dimostrano che non bisogna andarci allo stadio. Però le pene di solito, secondo me, devono essere semplici di applicazione. Io proporrei che quando si accorgono che uno dà fastidio con l'laser sta tirando un rigore, c'è una pena pecuniaria salatissima per la società che deve essere destinata alla Serie B. Uh-huh. E si tira il rigore dall'altra parte del campo. Semplicissimo. E poi l'ultima cosa, forse questa è scema però, ma non è che qualche Scusa. No, perché già la primissima, no, non che sia scema per carità, però mi sembrava un po' duretta, ecco, come sanzione. Sentiamo quest'altra. Insomma, io ho pensato invece per la Juve, non è che qualcuno dice siamo rimasti in quattro a giocare per via degli infortuni, alla fine del campionato c'è anche il mondiale, insomma riposiamoci un attimino adesso, giocheremo in primavera. Tutto lì. No, Giuseppe, no, non credo proprio. Non è così che si spiega una crisi di queste proporzioni. Gli anni dei mondiali sono sempre anni da prendere un pochino con le molle. C'è qualcuno che in ritiro premondiale ci va molto, ma molto con largo anticipo. È sempre capitato. In tutti, insomma, prima di tutti i mondiali, e un po' per tutte le generazioni, ma non fino a questo punto. Perché sentimenti era quarto, domanda Costantino, perché erano quattro fratelli e tutti calciatori tra l'altro, e il portiere era sentimenti quarto, era il quarto di quattro fratelli. Non crede che Del Piero, oltre che essere un bravo ragazzo, sia però anche un bravo simulatore, domanda Fulvio. No, in assoluto no. Ieri sera sì, certamente sì, perché l'ha cercato prima. L'aveva già cercato prima, e credo soprattutto che sia un mediocrissimo arbitro Saccani non arbitrava a Torino alla sera di Inter di Juventus Inter, arbitrata veramente in maniera pessima, no? in assoluto. E torna ieri, vede Del Piero che si buttacchia 3 o 4 minuti prima sul lato destro dell'area e gli fa anche gli alza anche il ditino, gli dice non farlo più, mi raccomando, questo lo rifà 3 minuti dopo e gli dà rigore. Allora chi dei due ha sbagliato? Tutti e due sicuro, però il giudice è Saccani, quindi io trovo più grave quello che ha fatto lui. Quello che ha fatto l'altro è un po' avvilente per un giocatore come Del Piero, secondo me. Gianluigi Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Dica. Buongiorno. Niente, io volevo solo contestare un paio di cose che lei ha già detto in un'altra occasione. Mi deve perdonare, io l'ammiro comunque per la sua pacatezza. No, è solo riguardo sia al laser, l'altra volta lei l'aveva già detta questa cosa anche a proposito del razzismo. Cioè che lei ha dato un consiglio indirettamente dicendo a chi va allo stadio deve essere lui il primo che contesta chi fa qualcosa tipo un bu, oppure, ma lei evidentemente mi deve perdonare veramente, guardi, lo giuro. Lei è già perdonato. Scusa, cioè, ma lei si immagina che una persona va a contatto con quelle persone a dirgli di smetterla? Cioè, ma lei veramente è proprio da tanto che non va in uno stadio, perché io non mi metto lì a battibeccare con uno di 1,90 m magari. Ma non è detto, già... ma non è detto che quelli del laser, no? Non è detto che quelli del laser siano di 1,90 m, sa Gianluigi. Sono secondo me, anzi, sono delle schifezzuole se la mettiamo su quel piano lì. Io non credo che siano quelli del 1,90 m, o che siano quelli particolarmente violenti. Io credo che questi siano dei frustrati di altra natura. Penso che siano degli imbecillotti di cui si può venire a capo con una certa ragionevolezza. E comunque adesso lasci stare quale può essere la soluzione, chi deve intervenire, ok. Secondo me ha ragione l'ascoltatore di prima nel dire che è ora di affrontarlo sto problema, perché è anche vero che ogni tanto c'è qualche piccolo eccesso che può essere superato facendo finta di nulla, no? Cioè non dando importanza a queste piccole cose, a queste piccole persone. Qui non sta funzionando così, perché sta ingrandendosi, sta dilagando il fenomeno, e allora dovendo intervenire tanto vale intervenire. Poi sulle sanzioni, sulle modalità, sul codice, sulle tariffe, i delitti e le pene, beh, insomma, lì tanto non tocca a noi. E poi comunque lì ci si può intendere. Dipendesse da me, io riformerei anche un'altra regola, e cioè quella che depenalizza le società dai giocatori positivi all'antidoping. Io non sono d'accordo, cioè, secondo me se c'è una partita in cui Mutu, faccio un esempio, segna due gol o segna un gol e viene trovato positivo alla fine, io questa partita la rigioco personalmente, e se sono l'altra società chiedo di rigiocarla. Questa è una cosa che è stata stabilita così ad un certo punto, si è detto che riguarda, insomma, la sanzione riguarda l'individuo e l'individuo e non la società e non il risultato sportivo. Io non sono d'accordo. Se il risultato sportivo è successo recentemente anche a un altro giocatore del Brescia, Flacchi è stato trovato positivo dopo una partita in cui lui era subentrato e ha segnato il gol decisivo, se sono io il giudice sportivo non mi sta bene che ci vada di mezzo solo Flacchi, perché comunque nessuno mi può dimostrare che non ci sia stato, come dire, che quell'additivo non abbia funzionato anche per il giocatore in quella circostanza. Se un giocatore è stato decisivo e viene trovato positivo, secondo me questo è un altro discorso che si potrebbe rifare. Al momento non è così, lasciamolo stare. Ringraziamo tutti gli intervenuti, ringraziamo Rudy in regia, anche se è un po' afflitto per il suo Milan, Flavio Suardi e Franco Piantanida in redazione. Ci sentiamo domani, buon pomeriggio.